Stavo provando questo cacchio di baracchino, gli ho regolato l'eco. Cosa gli hai regolato? Gli stavo regolando l'eco, capito, perché era troppo alto. Bella. Via, non ce n'è. No, dico, se va bene così lo lascio così, perché lo posso aumentare o diminuire oppure lo posso togliere, guarda. Così a minimo. Così. Ora. 1, 2, 3, 4, cambio. Prova radio. E manometà minimo. Così va bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dica. Ma cosa stai combinando? Schifo, non sto facendo nulla. Lo dicevo sempre. Stavo sistemando, ho cambiato la lenza in quel murinello. E quale? In quello della Surficasti. Perché era mezzo marcia, gli ho buttata tutta a terra e gli ho messo la gorilla. E a me no, adesso va meglio così, capito? E te credo. Ma dici, c'è qua? Sì, che c'è. Ah, ecco, no, perché non avevo capito, sbira Rubizzi. Gli ho detto, qua, adesso mi ascolto come sto scendo. Eia. Andiamo bene, andiamo. Gabba. Già va bene, già. Di lusso alla grande, capito? Non ce n'è. Eia. Positivo che è. Ciao Guariello, buonasera. Io mi vengo California, senti qua la vitamina che è chiede. Senti questa piccola modulazione, Lugariello, cambio. Positivo, dai, che per oggi, ti ascolto perché chiedo che è. Va bene questa radio, Luca. Sì, ya. Perché c'è l'eco, capito? Però a me non mi piace, l'ho abbassato perché è troppo ripetitivo. Adesso l'ho regolato, così va bene. Attenzione, buona mia, se cutre di là Italia, becco. Io me vado, senti qua, senti l'eco, gaba. Che frate, guardi la fondo scala, dove sei, a casa? No, di madetta, guardi mia che pezzo, guida mia gaba. Sette con 9.30, quasi 9.25 sei qua da me. E io come sto arrivando lì? Tutto positivo, guardo fondo scala da parte tua, gaba. Quindi va bene, gaba. Vai Natalino, cambio. Luca non lo sento, dove cavolo è? C'è troppo QRM qua. C'è Lugariello qua, capo Natalino, ha detto che non ti ascolta, che c'è troppo QRM, frate. Non mi ascolta. Hai detto che c'è QRM, non ti ascolta. Sì, ma digli dov'è? Prima segnali 5 qua, Natalino, allucinante. Capa, frate, lui è a Lima Delta, cambio. Te lo ascoltavo sempre io da lì. L'antenna. Frate, sicuramente l'antenna, cambio. O me ne farà dall'antenna. E a te però. Io sto usando l'antenna di gomma qua, frate, tutto capo, capito? E io sono la boomerang. E stai arrivando bene, dai. Sì, praticamente 9.20 qua. Strano Natali che non ascolti, E dall'altra non ce l'ascoltavo sempre. E dovresti ascoltarlo bene la grande da lì. Aglio e olio, no aglio e olio, aglio e olio. Non lo ascolto. Io più forte arrivo di Natalino, Luca. Sì, la prende, è 3, segnale 3, 4, tu sei a fondo scala. Cava, frate. Positivo, dai. Più forte, guarda, Luca, chi è che arriva più forte? Io sto usando un 48 modificato, Lugaria, cava. Ha detto che sta arrivando più forte, io e lui. Ma io non lo sento, però. Mi senti, Natalino? Strano, io lo sento 9 adesso. Ha detto che ti sente 9, Natalino, e tu non lo senti a lui. È meglio, se no non lo sento. Cava, strano, mi sembra che te capi, perché c'è un bel QRM, Natalino, capito? E io lo ascoltavo sempre a lui. Ma qua è il QRM, ce n'è un bel... Oh, fra, dopo che non me l'ascolta, io lo cuocuomane. Cava. Guarda, mi è toccato aprire lo squetch, comunque cuocuomane sei tu. Se te ne lasco ci sarà dato, che non mi intendi. Via. Ciao. senti, siamo lo stesso. Allora, quasi 9:10 c'è qua. Ma bomba, arrivi tutti, Santana, cazzo, buona manta, anche io c'è vedere giù pure a tutti. Infatti, però la di Natalino, allora, non è un problema mio. Oh, Natalino a Santiago 6, 7, tu sei 9 più 5 e complichi a 9, 10. Infatti ti ascolto bene anche a te, sei il solito. Infatti pensavo fosse il mio il problema, visto che ha piovuto un po', vabbè. E cosa vuoi dire? Beh, Claudio, ti sei mascherato. No, no, no, se vogliamo mascherare abbassa così il brodo di braccio. Sei voi che ha la guglia per il frizzer? Sì, chi c'ha sempre in fresco. Ma che c'è anche Brittella? Non gli dico, frate, chiede. Attento, Brittella. Ciao, Claudio, buonasera. Beh, è subito da Cimbrano che vai. Ma quando questo è un 48 modificato che mi hanno dato, KK. Male sta uscendo, Claudio. Ah, no, sei 9 abbondante. Arrivi più forte Luca di Depparo. Via, va. Ah, ci ho provato un'altra radio a vedere. Vabbè, adesso però, dai. Tu c'era l'antenna sul tetto, lui c'era nel fogliolo, cazzo, lo fai comprendere a voi. KKK di Roger, ciao anche a Natalino, buonasera, ben ascoltato, buonasera a tutti, ben ascoltati. E niente. Ma secondo me tu qua è più aperto per la tua zona, capito qua? Natalino, stai uscendo? Natalino, cazzo, un po' giù di fai che c'è un microfono cimbranato. Ma cazzo, non è andato nella bidivella della mountain bike che ho il microfono. Natalino, cambia la perivella. Non stai uscendo, Natalino. Vai, però. Che confino, vai. Guarda questo segnale, Claudio. Come? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si è entrato in... diciamo, non c'è più... quel tempo bello, caldo, ormai. Il tempo giù, non gli vale un freddo, là. Il freddo deve fare. Ehi, avete parlato in due, fra, non ho capito niente. Nova. Guarda, questa è l'altra radio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova radio. Ma che Luca sta arrivando, 9 più 10. Caragato. Hola, hola. Guarda, qua, uscendo sto adesso. Mo sì. Ma dovrebbe avere dei problemi da salire, perché da lì, cioè, io la qua, sicuramente non vedo. Ah, problema l'antenna, non sta irradiando bene con l'antenna sua. Boh, prova Natalia a aumentare la potenza. Qua non posso aumentare nulla. Questo è l'omologato, capito? Santiago 8, sì, qua, 8. Quando aumenti la potenza a me mi devi arrivare 9 più 5. Se non arrivi 9 più 5 vuol dire che quell'antenna c'ha problemi. No, 9,25 dice che ti arrivo. L'altra volta mi hai detto così. 9,25, sì, quando sei tutto attaccato, la manetta. Ma questa non è quella la radio, è l'omologato questo. Ah, gappa. Il segnale c'è, lo stesso segnale di Antonio Bombo, uguale. Quando usi tutta la potenza, tutte le cose giuste. Se invece tratti un fatto e mezzo, sei Santiago. Scendimi. Ah, Franco è. E allora? Cazzo, Brittella, non stai uscendo. Allora, domani no. Massimo vostro computer Roberto. Bravo. E io uscendo sto. Sì, secondo te? Claudio, uscendo sto adesso. Adesso sì. Ma lo sento... Guarda il segnale, com'è adesso? Claudio, io sento alternata Natalino. Forse vuoi essere più vicino. Prova solo con la portante, Natalino. C'è un leggero rumore di trattoria. Ciao. Vi sono ragazze su stessi occhi. Sente un po' di trattoria friggitrice, capito? Come stai facendo le patate. Io sono internata. Sì, internata, sì. Mi sa che andavamo a me la bedifella, cosa ne dici? Hola. Mi sa che io a Cavour con la bomba con una manetta da un cornicione. Davvero? Se la gioca che vecchia sbaglio. Gioca un bel, ma io non ho vendicita allora. Qua c'è un bel, ma non entra, io lascio, tu immaginate che lascio il cancello aperto, entrano dentro, c'è un secchio vicino al cancello, se ne vanno tutti lì, quando è pieno lo chiudo. Di lusso, ma come ti faccio di china, ma ti posso ogni volta tagliando, cammino un bel, ma un bel, chilometri. E poi vai, scendi a vuoto, no? Così che ho vuoto. Poi quando sali hai il carico, è normale che poi ti stanca. Ah, cammino un bel, zona bancari. Si conferma. No, qua ce n'è un bel, qua vengono a volte anche a rompere le palle. La domenica mattina presto, capito? Ti appagato. No, non stai innestando. Cosa vuoi tu, compare già di un battato? Cosa vuoi però? Va bene, per permettervela a voi già rientro dopo, che faccio due cosettine e poi scendiamo più tardi. Ciao Franco Franchi, ciao Lucarie, ciao anche a Mattalino, là. Ci sentiamo dopo. Capa, ma stai chiudendo, cambio. Sì, frate, anche io me ne sento un attimino che vado a cercare la petizia, guarda che cauta nel fango e poi c'è la cura di guerra. No, frate, devo preparare della roba, dai. La metto al forno, me la preparo, poi già lascio tutto acceso qua, se ci siete dentro. Va bene, Claudio, saluta in casa, capa. Ok, ciao Luca, dopo allora, vai Natalie. Franco, uscendo sto. Cappa, però la radio è molto bassa, non ho capito perché. La radio bassa? Permessi. E può darsi sia la batteria allora? Sicuramente sì, l'MB4 stai usando. No, il Turner. Certo, quello dovrebbe spingere alla grande. E vuol dire una cosa che era, come si chiama, la batteria magari. E questo è lo stesso, ce l'avevo fermo. E ogni tanto raschi adesso. Sono un casino questi microfoni, quando non li utilizzi è un casino. Prova a vedere con quello come esci. Questo è tutto gappa. Gara, cambio. Prova, ora. Ora. Franco. Papa, dimmi. Com'è la radio adesso? Che gli ho cambiato la batteria. Adesso va bene. Aspetta un attimo che chiudo l'altro microfono. Quindi adesso va bene la radio? Franco! Sistemato là questo microfono. E guarda com'è la radio adesso, se va giusta, che adesso gli ho cambiato la batteria, capisci? Capo, adesso ti ascolto bene, va benissimo così, lascialo così che va bene, capisci? Qua così aumenta. Capo, va bene, prova, 1, 2, 3. Guarda, così è aumentato. Capo di positivo, però si sentono tutti i rumori sottofondo, capito? Perché io lo uso sempre così, sennò è troppo sensibile. No, già va bene, dai, ti ascolto benissimo. Ne ho tolto la batteria dall'MB4, perché era la batteria scarica. Ma io ce l'avevo fermo da un bel questo MB4, sicuramente è tratta dalla polvere. E a me ne di un macello. Comunque a Luca, se io chiudevo lo squelch non lo sentivo. Ma io l'ascoltavo bene, stava arrivando 9.10, 9.20 qua davanti. Vabbè, io con lo squelch chiuso prima lo sentivo. che la sto mettendo in funzione questa radio, perché stanno, è un casino quando non li usi, mille problemi. Già lo so io, adesso sto uscendo basso, basso. E anche io sto scendo basso qua. Che watt? Sì, sto scendo con 2 watt. Oh, io, ya. Che ci vuoi fare? Ma com'era? Ha finito di piovere? Tutto manzano, era più venti, mamma mia. Oh, ya. Un casino. Quindi va bene quel 48, Natalì. Sì. Lo smitter lì bisogna cambiarli. Io ne ho messo uno che c'avevo, però c'è la lancetta mezzo storta questo smitter qua. Ne devo procurare uno di 48. O lo ordino. E c'ho l'altro anche giù. Ce l'ho in campagna l'altro. Infatti te l'ho portato su. Ma va, che sei da un bel femmino, a te si magari fa mille problemi quando l'attacchi. E che vuoi che ti dica? Un casino, è un casino, cara cara. E quello piccolino, provato là? Non lo so, non l'ho ancora provato, adesso lo provo. Sì. E ci avete. Basso basso ti ascolto di radio, la radio bassa, cioè. Vabbè, fra, io me ne faccio in quel ritiro e sto facendo apposta, e se no non cavo più. Adesso la radio è sempre bassa, Adesso va bene, va bene, radio normale, no? Il microfono gli ha cambiato, io lo volevo cambiare, ma non ne ho di qui microfoni normali, io volevo mettere un altro microfono, secondo me il tuo microfono non spinge nulla. Ti intendo bene. Ma ci metti, qua va bene il microfono del tempo, però devi modificare, devi cambiare delle connessioni, capito? Oppure un altro microfono del Midland che spinge di più. Ah, buon rosso. Comunque quello, adesso ti sento bene. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vabbè, la radio è normale. E invece ti intendo bene. Perché poco fa non ero commutato, capito perché non mi ascoltavo. Ah, non avevi la commutazione dell'antenna, là. Già, è per quello, hai capito. La vecchiaia quella è fra. La vecchiaia è carrogna, è un casino, Invece ci vedi questo apparecchio. Sto dicendo questo apparecchio, se ci metto un altro microfono, anche un preamplificato piccolino, oppure un altro tipo di microfono, perché questo con il microfono non è un granché. Sì, vabbè, però già funziona, ti fa sentire. Esce bene, no? Eia! E il segnale quant'è con questo? Quando scala c'è. Questo da 4 watt, misura. Eia! È l'omologato. Va, è una MFM quello. Non disturba neanche, capito? Invece l'altro se gli attacco a Giorgetta disturba un po', Sì, vabbè. Quello è omologato, ci è proprio. Capito? Si andava e si appagava. Vabbè, l'altro è modificato, chiaramente c'è più forte. Ma questi sono così, capito? Ma secondo me anche se diventa un altro microfono la stessa cosa. Sì, penso di sì. Quello è nuovo, l'avevo comprato nuovo io. Provato. Adesso c'è la carcassa, c'è il filo, c'è tutto e manca la gamba. Porca miseria, di quelli belli, di che vanno proprio per il 68 modificato. Ecco. Ma la capsula è di quelle capsule grandi, non ne ho, cioè di quelle piccole io. Infatti. Uno dice microfoni GTE, Bilu. Che significa? Ce l'ho completo, manca la capsula, ci ho messo un'altra capsula, ma non va bene quella capsula piccola, capito? Ma io ti ascolto bene. No, già va bene, e alla grande. Adesso ho provato l'altro. L'altro deve essere, ce l'ho in campagna l'altra radio, ok? Ma anche ti ascolto bene qua, però basta che ti do un segnale. Ehi, guarda a vedere, 1, 2, 3, ma sono basso, mi, qua, quando alzo, mi. Vabbè, la intenda, va. Sì, -3,24. Sì. Ti ascolto. Adesso invece sono al minimo, 2,5 watt. Sì, sì, ti ascolto benissimo. Aspetta, prendo, mi prendo la sigaretta da cucina. Sì, pure io. Mi sto intossicando. Sì, io altrettanto. Per carità, non riesco a buttarci, ragazzi, una carina di sigaretta, un casino. Sì, infatti non è facile smettere. Ne so qualcosa io. Per carità. A martedì per forza servo io, fra. Non lo so, se c'è impegni. Se c'è impegni mi arrangio io, non lo so. E per quell'operazione che dobbiamo fare, e il fatto che dovevo andare per il cambio del medico, ma vabbè dai, se facciamo quello che dobbiamo fare. Perché ti piace fare la parte della cantatrice, ma per puro compiacimento. E andu... Prima ti andava bene, alle 9:30, 9:30, 10:20, capito? Quindi non c'è problema. Quello puoi fare farmacia al cambio del medico adesso, capito? Sì, devo andare lì, infatti. Però perché c'è roba che non... Che la farmacista le risulta che è piena, la dottoressa. E la dottoressa mi ha detto di vero, lui. Io l'ho dovuto fare. Ah, bisogna vedere. Io me l'ho cambiato lo stesso il medico. Ma la vedere se c'è un posto, capito? È un macello, è gattabigliato, bravo. No, non mi hai preso dottor Policastro. Medico chirurgo anche, controlla l'udito e tutto, uno specialista ed è bravo veramente. Ma lo trovo carino, niente di più. E vabbè, adesso vediamo, io ho mia cugina che è medico e anche, sì, cioè non mi piglia a telefoneggio a Romarito di mia cugina o a mia cugina e cerco di risolvere così. L'importante è che mi mandano via email e ricette. Io non voglio finire. Tanto io non ci vado mai dal medico. Vabbè, comunque se te lo vuoi cambiare, già ce ne sono medici. Pigliate quello che c'ho io. E dov'è c'era questo medico? Aspetta un attimo. Via Napoli, quello, non sa se è via Napoli. Per andare con Cetta, io lo voglio vicino qua, mi capito là. Adesso sta trasferendo, se ne va, dove c'è proprio il medico io, quello che è morto. E lei va lì. E a me mi è stato comodo se non riesci a pigliare una ghiscia. Ma vediamo un po'. Dai. È quello che c'è vicino alla Neri, quel medico lì. E qui è sempre pieno di niente. No, va a chiedere quello, quello è vicino, capito? Ma per mia moglie non è vicino. Ha capito, non vuoi vicinare oggi. Non so cosa dici allora. E adesso vediamo là, già se può arrangiarmi. Io ho preso quello perché c'è la mia sorella e praticamente si trova bene, ma è figlia di questo che ed è bravo come medico. Ha detto vabbè, adesso vediamo. E infatti, adesso vediamo sì. Ah, ma è vero, se non riesce a pigliare la guida, telefona giù a mia cugina, che è di Tori. Cazzo, non la parlo tu a me, fammi morire. Penso di sì. E a chi sono tutti i miei, un cazzo di Tori? Non è tanto facile cambiare il medico adesso, con tutti i piedi. A me me l'ha cambiato subito. Davanti ai documenti, codice fiscale, tutto quanto, cioè le tessere sanitarie e tutto il resto. Mi ha fatto la richiesta, ma l'ha cambiato, capito? Ehi, ma vuol dire che risultava che c'era il posto? A me metti un blocco, Candubone, perché è piena. E dice che adesso se ne cancellano un po', vediamo, forse non era aggiornato il sistema e diceva che ne aveva truppi. E quello è, non mi faceva scrivere, mi. Vabbè, bisogna provare, è un casino, questi medici adesso sta diventando un problema anche. E se no mi tocca comprare a mille medici, senza che non faccio il dottore, è caso. Io mi devo rinnovare il tesserino del coso, del ticket, che ce l'ho scaduto, capito? Il ticket è scaduto la mia. e devo salire lì, se via Maurizio Danfarina a farlo, ma bisogna salire presto perché c'è un casino di gente. No, in farmacia te lo fanno quello, fra, anche quello te lo fanno in farmacia. Fanno l'esenzione, quel tesserino sa che c'ho qui. Ehi, l'esenzione dal ticket, già te lo fanno. Paghi 5 euro. Paghi 5 euro, mi ha detto mia moglie. Devi salire lì, ma a parte che non ti ricevono. Ecco, allora me lo faccio. In farmacia devo andare. Bene, ci salvo e me lo porto in vivo allora. Infatti, a che allina ma non so se ti vende, anzi ha un prezzo, la nostra ha detto che non stanno facendo nulla. Cosa avete detto? Niente questa parigia, ne manco una, fa così muovi l'amperaggio. Si va a quattro patte, cosa deve assorbire? Le cose non l'ho controllato. Sì, vabbè, ma così assorbirebbe chiaramente. Ho fatto un passaggio con l'altro, a vedere. Come? Ma pure funziona la cabaletta, c'è vedete. E pure funziona. Guarda questa com'è la radio, va meglio. La mazza che buona e calde. Perché ce l'avevo fermo, ho capito. Adesso l'ho messa in funzione e volevo vedere appunto come stava andando. E mi ha fatto soldi. E ogni tanto lo accendo, capito? Perché se no se lo lascio spento si rovina. Esa. Uiui, che ci vuoi fare? Aspetta un secondo. Martedì vado a... Martedì o mercoledì mi arriva quella cosa. Qualcosa che ho ordinato. Sì, già ho capito. Sto guardando se sto disturbando, aspetta. Ora la prova, 1, 2, 3, riesce a vedere la 2. Il canale 2, vediamo un po'. Prova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, non sta disturbando. Ma di solito disturbavo nella RAI, capito? Vabbè, adesso non stai disturbando. E vabbè, sto scendo anche con tutti i watt, capito? Lo che scende con questo, 1, 2, 3, 4. Questa è un'altra curva, è diversa. Commutatore, capito? Posso usare 1, 2, 3, 4. Commutato con questo qua, con quello omologato. E almeno sei più tranquillo. Vabbè, non voglio disturbare. Magari quella è sotto qui mi rompe le prove palle. Chiaramente se gli dai più potenza è normale che entri. E beh, bettella. No, yeah. Guarda come mi ascolti con questa radio della Mutua. Sentivo no per Radio 5, va bene. Con 4 watt sto uscendo, Flavio, per... Mi sentivo no per Radio 5, se no, ottimamente bene. Ma cappa, vabbè, tu ce lo vedresti qua comunque. E vabbè, ma non raggio 4 watt, stanno con 20 watt, 40 modulati del K. Lo acceso qua, a farlo scaldare, ogni tanto già l'ho acceso. E ci conferma, aspetta un attimo, mi sta chiamando Anna. Va, vai Michè. E cappa. Oh iaia. Che vuoi che te dia? Comunque là, me ne faccio in quel reti che stavo facendo cosa e mi hai interrotto tu. Vero. Vabbè là, ci sentiamo fra, che devo fare cosa qua? Ciao Natali, dai, ce la riascoltare prossima allora. Cava cava. Cava cava. Ventella. Tu, ventella. Thank you. esame stasera. Ruedita buena usted ahí arriba, Dragón. ¿Tienes una ruedita buena ahí en Los Ayuan? Oye, esa es buena saberlo, eso es bueno saberlo ahí. Eso es bueno saberlo para darse una puta por allá. Oye, positivo ahí. Pues cuídate, papá, una hostia. Saludos, cariño y respeto a la familia, el convito ahí. Gracias por dejarme entrar a tu humilde hogar, papá. Ciao, dove? Ma cambiato radio giù? Sì, sono con Balacchino. Infatti eri un po' più basso di segnale. No, ce l'ho adesso anche, in questo momento. Che cos'era? Quello che ricordami il modello, non lo ricordo più. Sì, il Cobra, quello del fattore base, Cobra 139. Va bene, ok. C'è qualche durata, l'ho appena acceso anche io. Non credo, perché io non lo sento nessuno, l'ho acceso adesso, per cui nel tempo di attaccare il microfono e l'antenna e basta. Ma se forse qualcuno ha parlato sotto, avanti chi è? Giulio, hai sentito la barracuda, qua è migliorato, 9 più 10, pieno. Ok, ciao Antonello, ho sentito basso, ma ho sentito non tutto quello che hai detto, ciao Antonello, riprendi. Ok Antonello, sì, beh certo, adesso qualcosina riesco a sentire, ma non ho capito, 9 più 10, a cosa ti riferisci? Ma il mio segnale, con Balacchino sono uscendo, con Balacchino a 3 watt e mezzo, niente di più. L'altro il K è da quel, in questo momento è spento. E certo che sì che è un buon risultato, ma cosa hai fatto adesso? Hai girato il pollo dalla mia parte? Ok, vabbè, c'è molto problema di propagazione, comunque anche quello già dà fastidio a dire la verità, però diciamo che ti sto ascoltando con questo baracchino, che tra l'altro non è che abbia una grandissima ricezione, ma ad ogni modo con qualcosina già riesco a capire quello che dici. Beh, vabbè. No, 9 più 10, gliel'ho detto io, lo sto ascoltando io, 9 più 10, non so lui quanto ti stai ascoltando. Antonio, quanto l'ascolti a Giulio? Hai sentito giù? Sì, ho capito, sentivo 5, lui ha detto, più o meno come stamattina, dai, ho capito, d'altronde, con questo, ma cosa hai fatto adesso, Antonio? Il bipolo l'hai aumentato in un'altra posizione, perché stamattina non ti sentivo proprio per niente. Adesso non arrivo qua, sentivo 5. Ciao Claudio, ben sentito. No, qua mi date la 9.5, adesso è 9.10, è arrivato. E a me come tu nella ricezione come sei tu? Guarda come mi ascolti il segnale. Qua se ti sei abbassato a Santiago 5. Sì, Santiago 5, modulati vai quasi a 7. Stamattina eri 9.5 quasi. Allora, vedete, è camomilla. Comunque pensa all'antenna, Antonio, pensa ad un'antenna, così almeno ho bisogno di problema, quella che ti ho detto, dai, sono uno stivo e basta, è leggera, oppure come quella che ha Claudio, mi la Gipolo, quello mio lo stesso, ha uno stivo e basta, niente di più, e sono antenne che vanno molto bene, sia l'una che l'altra. Non ha uno stivo, ma due. Vabbè, lui su botto la mattina così, vabbè, cioè, vuol dire che l'hanno fatto, vuol dire che ci vuole, però quello che conta è l'ingombro, l'ingombro è quella lunga e bassa, niente di più. Se non è come stai dicendo tu, leggiti bene le caratteristiche con l'antenna. Se ne togli la GPO non funziona con l'antenna. Quello è il progetto l'altro giorno, il radiale è proprio il direttore, senza di quello l'antenna non funziona. Il direttore, no, penso che sia il riflettore. Il direttore dovrebbe essere il polo centrale, credo che sia così, non lo so, vabbè, quello fa da radiale praticamente, la massa in poche parole. Non lo so, è un'antenna particolare, molto particolare, perché c'ha due bobine, c'è anche il balum, capito, attaccato, quindi è un'antenna molto particolare. Che cazzo sta fischiando qua? Mi ero rotto le balle sto microfono. Ogni volta metto l'MC60 sul 430 fischia. Vabbè, può capitare, cosa c'è? Vuol dire magari hai un'altra radio vicino, o anche le cuffie, o un altro microfono, lo stesso, e si può provocare un po' di effetto Marsen, quello vabbè. Sì, ma è così, Claudio. Il direttore no, è casomai il riflettore, sicuramente, cioè quello è come l'antenna TV ad esempio, no? Lo stilo più corto, quello che è davanti è il direttore, quello dietro è il riflettore, che riprende le onde che vanno streccate, riprende e le respinge l'antenna. È così che funziona il discorso. Vabbè, che è simile, è la stessa cosa, vale anche per la 27, non è un problema. Avanti, vabbè. Comunque ha detto giusto Claudio, allora lui ha un tubo, per conto, un tubo grande dietro e ha uno più piccolo davanti, è un direttore proprio quello di 2,5 metri, l'antenna vera e propria è lunga 8,5 metri e c'è un direttore davanti di 2,50 metri che fa anche, penso anche d'accordo, non lo so, perché è un'antenna molto particolare. Poi volevo fare una domanda a Claudio, siccome stavo venendo dei dubbi, il ponte ripetitore, uno qualsiasi che abbiamo qua vicino, uno attivo, il nominativo lo ripetono frequentemente ogni 10 minuti o non funziona il nominativo del ponte qua? No, il nominativo che ripete è solo quello LR0, quello che ha Monterraggio e poi quello che ha a Fiume Santo, LR2 Alfa. LR7 Alfa non ripete niente, da solo il tono. Qual è quello che ti dà, che voglio fare una prova, quello che ti dà proprio il nome del ponte? LR0, ma non so se è staccato, non sta funzionando, non lo incito. La manovra adesso non arriva niente, è un po' in disarmo quel ponte, a volte funziona, a volte no, non lo so perché. Perché per legge devono ripeterlo ogni 10 minuti il nominativo del ponte, infatti io sinceramente non l'ho mai sentito, sentivo il bip ogni tanto. Il bip non è LR0, LR0 è 145-600, quello che tu senti, il bip è LR7 Alfa, 787.5 per questo. In pratica è mollami il microfono, eccolo qua. Senti, questo è. Sì, sì, quello già lo sentivo anche io, però adesso mi stavo avendo dei dubbi, perché io sinceramente di nominativo di ponti non vabbè che non è che ci vado a sentire, raramente sento solo le persone, ma non mi metto a aspettare che si attivi, però per legge devi avere il nominativo ogni 10 minuti il ponte. Non lo so come l'hanno piazzato una gestione, quella devi chiedere a Fabrizio se vuoi più informazioni dettagliate, io sono un po' al di fuori, vedo che l'R0 oggi non arriva, evidentemente il tempo brutto ha causato nuovamente danno, come al solito. Va bene, no Giulio è il direttore, quello ho capito, la direttiva è chiaro che quello che è davanti è il direttore, quello che è dietro è il riflettore. Questo è un po' particolare, bisogna che ti faccia, quando c'è una bella giornata, una foto, ti mandi la scheda tecnica e te la dici bene, fatta così. Senza quello, c'è lo stilo che praticamente regola le stazionarie sino a 2,50 metri, io l'ho tirato su, praticamente dovrebbero essere 3 metri, quindi sono ancora 50 centimetri, però le stazionarie sono a zero. Mentre le due barre in acciaio inossidabile col balum attaccato e i due isolatori in bacchilite, quelli, bacchilite, non so se bacchilite o teflon comunque, fa da direttore, perché secondo come tu giri l'antenna, è una L, no? Secondo come tu giri l'antenna antenna aumenta anche il segnale, capito? Io l'ho messo praticamente il direttore puntato al nord verso la Zinara. Ok, ho capito qua. Va bene, dai. Va bene così. Sì, beh, sicuramente è un'ottima antenna, no, non ci sono dubbi. No, io ripeto, non, così non la conosco così direttamente, non l'ho mai vista, però l'avevo vista solamente con questo video che avevo visto un po' di tempo fa e mi era sembrata, mi ha subito convinto, diciamo, come antenna, la verità, anche perché chi la illustrava era sicuramente un radioamatore, qualcuno che si intende molto anche di antenne, perché nel modo come parlava si sentiva che era una persona molto competente e mi ha convinto, la verità. Infatti ho subito pensato, questa deve essere veramente una gran bella antenna, però poi naturalmente sta a vederla e anche a provarla, quello è ovvio. Ascolta, volevo dirti una cosa, ma funziona anche nelle altre bande quell'antenna lì, oppure solamente il banda 27? Guarda, è quasi 0,30, praticamente ne fa quasi tutte le bande. Infatti volevo mettere una 5 bande, ma con questa va bene, ci lavoro molto bene in 40 metri, 20 metri, 10 metri, in 15 metri a 21 MHz, 24, capito? Va bene, 18 metri, va molto bene, molto molto bene, senza neanche il correttore, la verità. Mi salgono un pochino a 1,3, 1,4 le stazionarie, non 18 metri, 18 metri, ma tutte le altre bande le fa senza problemi. Capita, bella, bella, veramente, ultima quella così, veramente, molto interessante. E vabbè, può darsi che un giorno magari mi salta in mente e me la compro. Però avevo voluto capire anche se a livello di TVI stanno molto vicino, vabbè, lasciamo stare adesso la tua posizione, che magari sei distante dalle antenne eccetera, per capire anche se fa interferenza o meno, no, perché con la Game Master sono veramente tranquillo e questo non ci sono dubbi, perché io ce l'ho vicino l'antenna TV, non solamente la mia ma anche quella del vicino di casa, ce l'ho attaccata praticamente ad un di distanza nemmeno, non si vede nemmeno l'ombra del TVI, per cui va benissimo così, sono soddisfattissimo soprattutto per quello. Facciamo girare per Antonello, avanti Antonello. Però starà direzionando l'antenna, no, vai tranquillo, tu ce l'hai a 2 metri o ce l'hai a 10 metri l'antenna TV, capito? Perché noi non ne abbiamo centralizzata qua, ognuno c'è la sua, non c'è la sua sul lato destro del poggiolo di facciata, perché ci abbiamo i terrazzini dove poi io sotto c'ho la veranda, la mia è dall'altra parte, dalla parte opposta, quindi l'antenna tutte e due sono in mezzo, sia la Mantova che quella, assolutamente nessun problema, ti posso dire che di potenza già ne uso io, non è che uso sempre 5 watt o 10 watt, quando devo usare arrivo anche a 1 kilowatt, però ti ripeto, no, nessun problema. Ok qua, è meglio così. Aspetta che mi allontano, se lo fischia qua che c'è l'altro acceso. Sì, meglio così. Buona sapersi, dai, finalmente hanno fatto un'antenna valida che riesce a sostituire alla grande la Mantova o qualsiasi tipo di Mantova. Meglio così, bello bene. No, quando l'ha presa Claudio, l'abbiamo vista, ne abbiamo discusso, ti posso dire, è una grandissima antenna, guardate che è una 7 ottavi, un po' più grande della classica Mantova, che è una 5 ottavi, ha una radiazione migliore a lunghe distanze, spinge molto ma molto di più dalla Mantova, non dovrebbe essere neanche molto rumorosa come antenna, ma ho visto i rapporti, i segnali, ho fatto le prove, Claudio, qua guadagna 5 punte, da 9 passa per dire a 9,5, da 9,30 a 9,35, e quello non è poco, e ultimo discorso. C'è un'antenna, un progetto, lo stavo leggendo un po' prima di prenderla, ci siamo informati, che lo usavano i tedeschi nei dirigibili, però era un po' critica come antenna, questo che l'ha costruita adesso, l'ha migliorata, ha messo questo direttore davanti, in modo che sia anche larga come come la cassa di banda è molto più larga, quelle lì erano molto critiche, quelle antenne erano molto selettive, mentre questo riesce ad andare su frequenze molto più larghe rispetto a quello lì, ed è un'antenna che posso dire anche costruttivamente, perché l'abbiamo guardata, vista, è fatta tutto materiale di qualità, acciaio inox, su pezzi in teflon in particolare dove ci devono essere gli isolatori eccetera, è una bella antenna. Infatti un domani dovendo cambiare l'antenna sicuramente mi prendo questa di Claudio. Ok, va bene, sì, beh certo, se lo sta dicendo Claudio, poi anche tu te l'hai vista, dunque sono sicuramente tranquillo per quello che mi state dicendo, no? Ci credo alla grande, ci mancherebbe altro, certo che va bene così, no, soprattutto perché a me mi interessava non tanto per il fatto della potenza del metro eccetera, quello già mi basta anche quella che ho, ma per l'ascolto, perché questa in ascolto o sulle altre bande non è che ho grande affidamento, anzi diciamo che ho perso moltissimo rispetto alla Mantova, che con la Mantova ascoltavo tutti anche 9,20 dei certe volte, parlo di 40 metri, parlo di 80 metri eccetera, anche ieri notte stavo ascoltando sia in 40 che in 80, sono passato con le cuffie, c'erano dei contest, dunque avevo difficoltà a sentire certe persone, mentre prima con la Mantova ascoltavo tranquillamente. Questa, ripeto, va benissimo il 27, però nelle altre frequenze è sorda, perlomeno nella posizione in cui mi trovo io, poi se ci sono altre soluzioni, magari in altre ubicazioni, allora il discorso può essere diverso. Vai Claudio. No, so, io la prima prova che avevo fatto addirittura c'è anche scritto, la puoi montare anche da terra, la metti un piantone, la metti in terra, cioè può lavorare anche da terra, capito? Un metro da terra, due metri da terra, non c'è problema, questa te lavora da circa 5 metri, niente di che, palo da 2 metri attaccato al muro e poi un'altra praticamente 2 metri e mezzo che escono, quindi è molto bassa, ma essendo lunga e ti ripeto avendo il direttore davanti così è un'antenna che lavora molto bene. Ok, e vediamo un po' se rientra un tantomello, io ho 5 minuti, mi stacco e c'ho roba al forno, ok? Già rientro subito, Antonello, sei rientrato? Se è roba buona chiamami, buonasera. Roba buona, Tino. Allora salto, c'è qualcuno sotto? Ma c'è un attimo, sta parlando. Antone, scusate un attimo, Antone qua è diminuito, eri 9,10, sei sceso a 9, poco meno di 9, poi picchi arrivi a 9. Dove la prima stava molto meglio l'antenna. Comunque c'è anche Tino, ciao Tino, ben sentito, vediamo se da Giulio è migliorato. Avanti Giulio per Antonello. No, ha peggiorato, Antone, hai peggiorato veramente. Sento solo il bisbiglio, almeno prima qualcosa capivo, adesso proprio niente del tutto, proprio sento e basta, niente di più, sento che stai parlando però non capisco quello che dici. Ok, ciao Tino, ben entrato, avanti. Ciao Giulio, ciao Antonello, credo, ciao Roberto, non lo sento io Antonello, basso, avanti Giulio. Antonello Barracuna da Ussi, sta uscendo con un dipolo, sta uscendo, poc'anzi nei passaggi precedenti lo sentivo non bene, comunque qualcosa sentivo, ma adesso ho spostato perché da ieri, da stamattina che sta facendo delle prove spostando in una certa direzione, ho cercato un punto perché è in un frontale chiaramente, essendo un filo così, e allora sto cercando la posizione migliore, ma adesso lì da me come l'ha messo adesso proprio non lo sento proprio, sento solo il bisbiglio e basta. Avanti Claudio. No, Claudio che si è allontanato, avanti Roberto. Ok, io qua l'ho sentito sempre bene, adesso però si è abbassato di segnale, poco fa era molto più forte, 9,10. Antonè, se riesci a mettere tutto come era prima, migliori anche dalla parte di Giulio, penso che migliori anche dalla parte di Tino, perché ti sentiva basso, per cui se sollevi o cioè se ruoti migliori anche da quella direzione. Guarda se riesci a fare come era prima, se no vedi tu. Ok, avanti Tino, a te Mike. Allora, io sono appena rientrato, sono entrato così brutale, senza senza ascoltare, quindi non so neanche argomenti avevate, ho sentito giusto a Claudio, ma che volevo fare la solita battutina. Ok, vai, ripeti tu per girare, vabbè, non so chi c'è, non so di cosa stavate discutendo. No, anche noi siamo entrati 10 minuti, io, Giulio, Claudio, che ci è andato a girare il forcetto, e coso, e Antonello, vediamo se c'è ancora Antonello, Antonello ci sei? Tombea, sto girando il forcetto. Ok, ti aspettiamo allora, vai Giulio a te. Ok, vabbè, no, non lo sento Antonello, adesso ha peggiorato la situazione, da come era prima, come adesso. No, stavamo parlando, per rispondere all'interrogativo che ha fatto, Tino, stavamo parlando dell'antenna, stavamo parlando, che c'è questo tipo nuovo di antenna, che poi tra l'altro ce l'ha Claudio, ma è eccezionale, è uno stilo, e basta, con un lato più corto, un agipolo, ed è lunghissimo quello sì, però è eccezionale, sia in trasmissione che in ricezione, anche perché riesce a lavorare anche sulla banda HF, oddio, vai. Vabbè, io sono fedele, fedele a ciò che ho, quindi non ho provato altro. Tu hai sempre la manta, ma l'avevi riparata quella che avevi, o l'avevi sostituita addirittura? No, io ho sempre la manta, ma si era aspettata, l'abbiamo contribuito, l'abbiamo rimessa a nuovo, diciamo, ho comprato quel foro che c'è all'interno che è in fibra, l'abbiamo sostituito e praticamente l'abbiamo ristrutturata, insomma, è come che sia nuova. Sì, e beh certo, sì, lo so, aveva quel problema che si era rotta la vetroresina e per cui aveva fatto caput lo stilo centrale, va bene, dai, comunque meglio così che l'hai ristrutturata e almeno l'hai recuperata, anche perché costa molto, oltre al fatto che non si trova più la manta, ma qualcuno ce l'avrà ancora, ma te la fanno pagare. E lo sai che addirittura quando hanno sempre sul computer c'è gente che sta vendendo la manta, va, poi non so se è nuovo di seconda mano, addirittura uno ha letto 330 euro fuori di gabbo, Guido, quando la nuova costava 145, perlomeno parlando della Turbo, rispedito a casa e tutto. Si può immaginare, questo forse vuol trovare il pollo, stava vendendo la manta, stava vendendo per abortante, euro fuori di gabbo, vai vabbè. Guarda, io ho conosciuto un tipo della zona di Cagliari, di Dolianova, pochi chilometri da Cagliari, metto, se serve a qualcuno la manta, vai da Coso, da Fusaro e ce li ha. Questo me l'ha detto un paio di settimane fa. Dai, insomma, Fusaro non è antenne, che più di uno ci è andato da Sassari a comprare antenne, non solo di avere quello, ma non ha neanche di nessun tipo. Qualcuno deve anche ordinare, non è fatto mai arrivare, cosa mi sta a dire? Se parlo di Fusaro qua a Sassari, se è Cagliari non so. No, Fusaro di Cagliari, questo è amico di Fusaro di Cagliari. Comunque Antonio è migliorato, 9 più 10 si è tornato, c'è qualcuno che si sta divertendo a mettere portante, sta dando colpi quando parla Giulio. Sì, così va bene, lascia così, Antonio, così va bene, ti sento bene, dai. Questo è addirittura migliore di prima, di quando ti sentivo poc'anzi, nel passaggio precedente. Dunque, almeno mi sento, con te il segnale da parte tua, giù, scusami. Così va bene, sì, sentiamo 4, ci sto ricevendo, però la radio almeno se non altro è comprensibile, vai. Ah, perfetto, ti ringrazio, d'accordo, allora chiudiamo, mano per secchio, dai. No, da me, ciao Antonello, non so se mi ascolti, ma suppongo di sì, sia un sentiero di 7, una radio di 4, comprensibile, però la radio non è fortissima, ma riesco a capirti, a te Antonello. Ciao, allora ti ascolto, Santiago.